Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Io ho sempre pensato che ci sono due categorie di donne: quella da portare a cena e quella da portare a letto. A lei la lascerei a casa. Ma santa, sei bella. Oddio, così mi emoziono. Sopra un braccio, penso dopo. Davigo, non c'è sta. Che me può consolare? Come? Ultimo. Certo, nell'ora del soffritto questo non darà dei fremiti lussuriosi alle nostre ascoltatrici, ma anzi le farà ribollire di rabbia. Una lettura maschilista, orrenda, schifosa, le donne, due categorie, da porta cena a porta letto. Chissà perché poi uno le porta cena, può mangiare anche da solo. Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Sansonna oggi ci aiuta in questa sorta di viaggio nell'inferno della mascolinità perduta, grazie a Dio, qualcuno dirà, io compreso. Noi abbiamo sempre avuto questo immeritato, questa immeritata fama di essere degli sciupa femmine. Scendevano le vichinghe verso l'Italia, il paese del sole e dei limoni, quello vabbè, qualche tempo prima, per pensare di trovare finalmente questi inesauribili, instancabili, romantici stalloni che pare oggi finiti tutti in un salone massaggi a depilarsi e a rifarsi le ciglia. Comunque, detto questo, siamo partiti con un esordio che probabilmente è inaspettato per il pubblico medio della radio. Non escludo il ritorno, è un film dedicato a Franco Califano. Dove nasce questo film, Sansonna? È un film dell'autore romano Stefano Calvagna. Il Califano, il Califfo, appunto, questo emblema di mascolinità romana, ma poi espansa in tutta Italia, morto l'anno scorso, rinasce in forma. E qui la membrana è sempre sottile fra l'omaggio e l'oltraggio, perché Califano lo fa Butinar, un imitatore che è amico suo, però con questo parrucchino da Muppet Show, che però, per chi l'ha visto, questo film pare che riesca comunque a commuovere, un po' brechtianamente, un po' come. Beh, è stato fatto dai suoi amici più intimi, pare che riveli degli aspetti inediti di Califano. La senescenza del maschio, appunto, uno che va dalle prostitute e con delicatezza dice: signore, come va il lavoro? Così glielo dice anche, ci sono queste scene, questi frammenti all'interno. Poi, ma il cast è meraviglioso perché è patafisico, c'è Nadiona Rinaldi, Michael Madsen ai minimi termini, quello che tagliava l'orecchio nelle Iene, uno delle grandi Iene di Tarantino, che qui si ritrova imbalsito, completamente devastato, doppiato da una voce simile a Claudio Capone, si ritrova a chiedere, a fare l'impresario internazionale che offre l'ultima chance al califfo. Però pare che ci sia una forte autenticità di fondo, nonostante appunto qualche incidente di percorso. Con la storia qual è? Diciamo, parla l'ultimo periodo. L'ultimo flash prima di andarsene del califfo. Il declino, se vuoi anche diventa metaforico del declino del maschio sempre più irrintracciabile nella società contemporanea, a parte le icone che diventano anche un po' pittoresche del gallo italiano, del cedrone italiano, insomma, italico e ruspante. Ecco, il gallo nel momento dell'infradiciamento finale delle sue gonadi, come ancora mantiene alto il suo orgoglio. Complimenti, una bella serata gli ha trovata. La prossima donna me la dava la galla. Il discorso è che tu devi smettere di fare sti localacci. Tu sei Franco Califano, tu devi fare i teatri quelli importanti, quelli di livello. Quando ho saputo questa storia io gli ho fatto una promessa. Ti avrei ritrovato. E ricambiato il favore. E trovarmi qui adesso mi consente di ricambiare quel favore. Fate un po' vedere. Diciamo che è comprensibile questo film, una sorta di aura romantica, di un sottobosco romano legato a ambienti nostalgici, antichi, passati, di una malavita bonacciona con piccoli papponcelli e simpatiche puttane, ancora legata molto a qualcosa fra il cinema d'autore anni 60, Pasolini, qualcosa che non esiste in più, dalla banda della Magliana in poi è stato spazzato via. Sì, poi Califano rappresenta in fondo anche appunto il cantore della banda della Magliana, quello per cui tutto il resto è noia, a parte la fase del corteggiamento molto da cliché, cioè il lavaggio della macchina, la barba appena fatta, c'è tutto un mondo di mascolinità e di afrore, di dopo barba, di petti villosi aperti, di camicie aperte, di appunto di eccessi notturni consumati nei locali di Ostia, eccetera. che appunto raccontano una icona che appunto va in disfacimento. Forse il merito è questo, di rappresentarla come un pupazzo alla Eugene O'Neill, appunto, come strano interludio, così lo rappresenta senza verismo, senza farne vedere la vera vecchiaia, ma con questo parrucchino che va oltre l'imitazione di Max Tortora. Sì, sembra esattamente, sembra un ragazzino con una parrucca improbabile, con un sorriso quasi gaio, che sarebbe un oltraggio massimo alla mascolinità imperitura e immarcescibile del califfo. Esatto, che racconta appunto questa Roma perduta, per cui non si capisce bene perché debba appigliarsi una nostalgia. Tutto sommato, il passato ha di buono che passa, e quindi poi vedremo le... Perché per fortuna non c'è più. Per me la vera donna è quella che ti sta accanto devotamente, dando tutta se stessa, senza chiederti niente. Niente, niente, niente. Scusa, mi dai una sigaretta? Ecco, come non detto. Tieni. Perché l'amore può durare un giorno, una settimana, un anno, ma poi... Paolo. Mi vuoi veramente bene? Ma come, ti voglio bene. Basta così poco per essere felici. No? Paolo. Che? Lo sai che le hostess non si possono sposare? Ma davvero? Non è mica giusto. Perché? Eh sì, perché se si sposano non possono più volare. Beh. Qua troviamo racchiusi e riuniti due luoghi comuni tipici degli anni del boom. L'uno è quello della hostess. Gli italiani cominciano a volare, a scoprire il volo, questo fremito. In tutti i film, chissà perché di quegli anni, c'è un'inquadratura dalla terrazza di Fiumicino in cui si saluta qualcuno che parte con l'aereo, come se fosse qualcosa di un futuro che ancora non ci appartenesse. Noi che andavamo a piedi, andavamo col somaro, andavamo in bicicletta, col camion, col pullman, col treno, finalmente andiamo in aereo. Quindi l'hostess è la sacerdotessa del volo, questa intangibile eroina e allo stesso tempo vestale del volo. E poi lo scapolo, Alberto Sordi, lo scapolo impenitente, genere umano oggi in totale via d'estinzione. Gli scapoli non si trovano più, e se si trovano, ahimè, non fanno più parte dei possibili maschi rapaci. In che contesto siamo? Che contesto è appunto il film Lo scapolo del genio Pietrangeli, che era un uomo ma riusciva a raccontare molto bene le figure femminili. La hostess non potevi riconoscerla perché era doppiata, ma era Sandra Milo, la sua voce un po' enfisematica, veniva mascherata dal doppiaggio, soprattutto dopo. È come togliere la voce alla sirenetta, non era più lei, chiaro. Esatto, però era comunque molto avvenente, e quindi veniva utilizzata in questo, appunto, questo miragium liebre che era la hostess, il mito erotico appunto di quegli anni. È utile per un viver però molto scanzonato e anche molto scadente, se vogliamo, come Sordi, perché viene ritratto nel suo aspetto caricaturale da mandrillone, cioè non viene esaltato da Pietrangeli. Se ne mostrano già le crepe, appunto, negli anni del boom si mostra già quanto sia grottesca quest'icona, che invece è sopravvissuta fino ai giorni nostri. Vediamo appunto col califfo, se vogliamo fare un cortocircuito temporale, permane nei decenni, nonostante fossero già individuate le basi fallimentari. Sì, ma nel califfo c'era questa sorta di aura maledetta, era la persona maledetta sull'orlo del precipizio, con tutte le stigma addosso della sua dissolutezza, che sono il suo fascino. Qua è un'altra cosa, è un fighettone, mi sembra. Esatto, capito. Come è sempre il classico vitellone Sordi, cioè intravedi sempre una mamma dietro questo seduttore, una mamma che lo accarezza sulla testa e lui che piagnucola con quella disperazione tipica, un po' patetica, meravigliosa di Sordi, che ancora però ha il suo fascino. Certo. Tuttora fare il piagnone ancora in fondo dà qualche mesto, ma tangibile risultato. Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta. Basta con le soluzioni avventurose. Alla mia età, come dice il Mantegazza, l'uomo ha bisogno dei famosi 3C. Carezze, caldo, comodo. Non è mica facile. Tratto signorile col sesso debole. Serietà sul lavoro. Niente compromessi. Poca confidenza con la gente. Poche ma scelte pubbliche relazioni. Allargare i propri orizzonti. Niente bar. Niente circoli. Un po' di chiesa, aspetto fisico, aspetto morale, aspetto un mese e mi sistemo. Qui è un vero professionista. Esatto, è Tognazzi, classico, però qui siamo a nord, appunto, qui c'è un pragmatismo terragno, padano. Il testo è di altissimo lignaggio, sì, però. Sì, è grande Piero Chiara, che appunto descrive questa... Il film è Venga a prendere il caffè da noi, di L'Attuada, dal 70, qui c'è Tognazzi, che appunto sa come insinuarsi fra delle calde coperte in questo tiaso. Tre ricche zitelle assatanate e bisognose comunque di un uomo, le metta in pace tutte e tre. Esatto, perché in fondo capisce che la mezz'età fisiologicamente può ancora regalare dei sussulti a questo... a questo xilofono femminile di tre donne, e però ci sarà quella poi fatale. Una ne sposa e l'altra due le tiene come amante. Esatto, fino al, però al colpo apoplettico. C'è una scena schifosa in cui queste gli imbandiscono una tavola meravigliosa in cui mangia e ogni tanto si alza leggermente su una natica e si lascia andare a flatulenza, una cosa orribile, e loro lo considerano anche questo un gesto di mascolinità. È perché Tognazzi riusciva a rendere l'aspetto naturistico, fisiologico dell'uomo, era l'unico comico che ti immaginavi veramente durante un amplesso, prima dicevamo prima di Sordi, Sordi inimmaginabile nel sesso, è tutto sospeso all'uso, invece Tognazzi mostrava il suo sudore, appunto questo aspetto organico, corporale, molto evidente che la cifra appunto. Infatti finirà a fine con una giusta nemesi, punito per questa sua esasperata tracotanza, finirà paralizzato, la scena finale in cui in fondo anche le tre donne sono appagate, lo portano a spasso sul lungo lago con la sedia a rotelle, lui fa la bavetta, questi gli puliscono il fazzoletto, la bavetta, tutte fiere, finalmente hanno, è il sogno massimo di ogni donna sposata, avere un marito incapace, imbelle di muoversi, accudirlo fino alla fine, anche pulirlo nelle sue più escrescenze vergognose, purché non si muova più, non lo abbia più nessun altro. È il grande complesso di castrazione portato all'effetto dello spezzamento totale delle gambe che ogni donna vorrebbe di un uomo. Creda, c'è da sgobare. E tu sei uno di quelli che batte molto? In stagione alta arrivo a farne anche 70 o 80. Però è sempre una bella media, eh? Insomma. Senti, in complesso come sono? Belle? Beh, tutte belle, no. Qualcuna è scarsina, ma non si può mica far tanto i difficili. Dobbiamo incoraggiare il turismo, eh? E tu preferisci le straniere? Beh, in genere sì, soprattutto la danese. Ah, per me la danese è la migliore. La tedesca è troppo sentimentale. L'americana. Ecco, qua vediamo finalmente rappresentato l'oggetto, il piacere che avevamo allucinato prima. Il maschio, addirittura un gigolo questo, che sta nella riviera romagnola, mi pare, e si presta naturalmente a pagamento, quello che oggi fanno i ragazzi vigorosi nel Kenya, in Giamaica e in altri posti dove vanno le turiste europee, esattamente la stessa cosa. Su questa terrazza meravigliosa di Gabicce a Mare c'è Gian Sorel, effettivamente bello, quindi non ridicolo in questo, anche doppiato con l'accento romagnolo per raccontare l'italianità, però era effettivamente bellissimo, affiancato da questo Enrico Manassi Salerno che fa il marito da settimana enigmistica col cappelletto e la pipa, che va a rompersi le scatole sulla riviera romagnola cercando questa moglie febbricitante di vita che è Sandra Milo, però ne teme le insidie, e quindi si arriva alla descrizione di questi cliché del bagnino battitore, come si autodescrive, cioè che butta questa rete a strascico estiva e quindi miete diverse mogli di industriali, di borghesi vari, di una varia borghesia italiana che va appunto a riversare le proprie mogli sulla riviera. Allucinava il suo possibile rivale, ma in realtà di questo non si trattava. Melog, cronache meridiane. Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. Ah. C'è pure qualche grande nome. No, non li conosco. Però l'incognito, l'incognito è la trovata del locale. Qui non ci sono nomi, solo numeri di telefono. Ah, ha capito? Ci si sceglie. Un drink, signori. Volete bere? Sì! Ma... Beh, noi abbiamo portato la Prunella Ballor. Ma che dite? Che ci portiamo? I cibi cotti da casa. Ci porti tre scotch, grazie. Cos'è che beviamo, Calbun? Tre scotch. Beh, io intanto mi butto, eh. Scotch. Sì? Signora 10, potrebbe concedermi un appuntamento, diciamo, al centro della pista fra, diciamo, 5 secondi? Ok. A presto. Avete visto? Su, coraggio, provate anche voi. E qua ribadiamo lo stesso concetto di pochi istanti fa. Come Enrico Maria Salerno osservava, anche per capirne le mosse, il gigolo che potenzi dargli la moglie, Fantozzi osserva il suo collega più scafato che lo porta al night dove c'è un sottobosco di povere signore disgraziate che stanno al tavolino, vengono contattate col telefono per dei poveri sfigatissimi maschi impiegati che si fanno un giretto di ballo. Il vero motivo per cui gli italiani riescono a reggere la visione del cupo kafkianesimo di Fantozzi è la presenza di Calboni, perché tutti fondamentalmente si sentono il vincente degradato di questo contesto, che in fondo è una degradazione del Vittorio De Sica, tantan, della grandezza nobile. Beh, no? Se è il vincente nell'ufficio di Fantozzi, significa essere uno sfigato a priori in tutte le possibili società umane. Però il grandissimo Giuseppe Anatreri, col suo baffone anche un po' alla Modugno, tutto azzimato, col papillon, no? Riesce a creare questa aura di eleganza in questo contesto di sfascio totale del night, no? E l'esotismo dell'italiano che cerca di sognare su queste palme dipinte scrostate sul muro, con questi che siete i primi, gli dice l'entrenese, ma siete i primi da 6 mesi, perché non veniva nessuno nel locale, che si portano le cibare da bere da casa. Manfilini porta la Brunella Ballor, uno squallido amaro, da casa, e poi tre scottici, appunto c'è l'anglismo che cerca di nobilitare, da fare da uomini di mondo, è meraviglioso, è terribile questo. Se si cogliesse in pieno sarebbe allucinante. Poi all'uscita prenderanno 15 taxi, sì, appunto, anche lì i gesti di Gradero, cioè, perché poi devono pagare tutti quanti con i loro risparmi, Fidini e Fantozzi. Poi alla fine finirà che consumerà un rapporto mercenario soltanto Carboni a casa di Fantozzi, che ha tenuta libera per l'orgia, e dovrà pagarla a Fantozzi. Pagandosi, certo, pagando, e quindi poi dovendo anche giustificare lui alla signora Silvani il tradimento del fedifrago, del suo rivale, del suo gastone, insomma. Anche perché Carboni fu l'unico a trombarsi la signorina Silvani prima della famosa notte di Fantozzi, in cui lei dice che ha messo persa in tutti questi anni, ma si era preso la famosa bomba al bar, quindi era un maschio taroccato, era un maschio taroccato, è andato a Capri la signora Silvani perché aveva millantato che stesse per morire. Allora la moglie, come ultimo viaggio, gli regala questa vacanza con la psicopompa di turno, deve essere la signorina Silvani, ma in realtà era una maniera che doveva rubargli 2 milioni per rifarsi completamente. Mi è piaciuto il concerto? Moltissimo, mi sono emozionata. Quando ho visto che si è emozionato, ho cantato soltanto per lei. Quel momento abbiamo provato la stessa cosa, non è incredibile? Eravamo distanti, c'erano centinaia di persone tra di noi, eppure noi due eravamo in intimità, assoluta intimità. Le sue canzoni entrano sotto pelle. Come ti chiami? Monica. Monica, sei splendida, somiglia a quella di Dallas. Come si chiama, Pamela? Davvero, non me l'ha mai detto nessuno. Ma è così, io ho lo stesso senso per le somiglianze. Anche questo vestito è magnifico. Starebbe benissimo sulla sedia. Il rituale è sempre lo stesso. Vedendo da fuori diciamo, come fanno le donne a caderci? Ma ci cadono sempre, in fondo. Di questi figli di buona donna, costellato il mondo, ahimè, delle sconfitte, dei cedimenti, delle scivolate e dei rammarichi di tante donne. E infatti questo è L'uomo in più, che anche questo è un film di Sorrentino, il primo film di Sorrentino, che allucinava la figura del califfo, anche se la mescolava ai vari Fred Bongusto, a Peppino Gagliardi, che pare fosse il più grottesco e il più feroce, tra l'altro, del gruppo, di questi cantanti un po' di giacca, questi cantanti anni 70 che facevano di questo fascino. Guarda, Calboni anche qui è presente in sottotraccia, nel capello lucido. Anche lui ha degli smoking un po' luccicosi quando va in giro per Cortina o a Capri, via dicendo. Esatto, e questa poesia questa poesia mediocre, sempre presente nei testi, quest'aria sempre ispirata, sempre seduttiva, ma in maniera molto triste, come se si dovesse sempre rispondere a dei cliché. E questo lo incarnava perfettamente Servillo in questo film. Ecco, allora spiegami il passaggio da Servillo in questa fase al Servillo in Giuseppe Gambardella, che dice quella fantastica frase che cito a braccio, quindi non c'ho più l'età per fare delle cose, non mi va di fare, e molla la rompiscatole che dopo essere stata trombata la portargli anche le foto scene che si era fatta lei nel computer. Diciamo che nella grande bellezza, questo mondo infernale dell'uomo in più, Sorrentino lo porta in una sorta di Olimpo, di queste terrazze che galleggiano su una Roma metafisica, sospesa in quell'ora notturna fra le 4 e le 5 di mattina, che la porta in un universo atemporale, e quindi ecco, siamo nell'Olimpo, siamo nell'oltre. Am, vedi che bel sito! Te ci hanno mai cliccato sopra? O sai che c'è un sorriso verticale da favola? Gli manca solo la parola. Ma chi t'ha scolpito? Michelangelo? Stava in forma quel giorno, eh? Ma perché non ridi mai? Qui siamo proprio nell'approccio metropolitano, capitolino, medio, il sabato sera, ma in luoghi molto marginali. Sì. In altri tempi, diciamo, oggi nessuno più accetterebbe. Esatto, qui c'è appunto gli anni 90 di Verdone, con la sua cresta, il suo crestone, gli occhiali lucidi a specchio, che racconta un po' il seduttore. Ma siamo sempre anche qui nell'ambito del tentativo di rispondere più che altro a se stessi, al proprio cliché di seduttore, cioè proprio raccontare, dover per forza... È sempre un'emulazione fallita e quindi un trash totale, perché ogni volta hanno dei modelli irraggiungibili per loro che arrivano per vie tortuose soltanto a lambire, ma in maniera grottesca. Esatto, lui pedina in queste strade di periferia, pedina con la sua Ferrari gialla decappottabile, appunto queste povere donne che cercano di guadagnare velocemente il cancello di casa, e le aborda piano piano, ma appunto è una sorta di macchinazione continua, necessità di doveresi, come una catena di montaggio della seduzione, cioè devi rispondere al tuo cliché, alla tua maschera. Oggi ha un altro nome, si chiama stalkeraggio, sarebbe uno stalker e sarebbe perseguito a termini di legge. Prenda a me per esempio la vita da stronzo che sto facendo. Perlomeno lei si diverte, scusi. Mi diverto da stupido, a parlare con delle donne stupide che ascoltano le mie stupidaggini. Ecco come mi diverto. Lo sa, signor sindaco, il gioco della cernia lo mando avanti da 8 anni e 9 mesi. Il fiore in bocca, il pesce sotto il braccio, nascondersi sotto il letto, scavalcare le finestre. Una vita da guerrigliero. Creda, anche a me piacerebbe qualche sera parlare con un amico e mettere il pesce da parte. Ma gran fatica chi non riesce a mettere il pesce da parte nemmeno per una sera. Nell'illusorio mondo, naturalmente, tutti i provoloni che abbiamo toccato. Esattamente, e li riassume tutti Aldo Maccione, che però già nell'80 era molto autoironico. Aldo Maccione per me è un grande, Aldo La Classe, conosciuto in Francia come il cliché dell'italiano provolone, però in lui c'era già un concetto che di... Che film è questo? Fico d'India di Steno, c'era già il concetto di autoironia, cioè lì per sedurre le donne dell'intero paese di cui è sindaco Pozzetto si fa portare dal pescivendolo dalle cernie e dice: questo l'ho pescato in profondità per te, ho affrontato mille rischi, mi sono infilato nei cunicoli sotto Marini, giocando naturalmente sull'assioma simbolico del pesce, sull'allegoria dantesca che c'è dietro, appunto sul velo. E quindi la seduzione del pesce funziona. Funzionava sempre, appunto. Poi finisce, precipita in casa di Pozzetto, perché c'è Gloria Guida, che è la moglie di Pozzetto, e però non riesce a sedurre, gli viene un infarto. Oggi i tempi sono cambiati, oggi si seduce con il sushi, che è un pesce fatto a pezzi, quindi non ha lo stesso valore simbolico. Grazie Giuseppe Sansonna, alla prossima.